Linee d'ombra di Matteo Caccia. I diari della quarantena di questa settimana di Linee d'ombra sono, come sempre succede, davvero un caleidoscopio di storie che arrivano da luoghi più impensati, perché uno appunto si immagina la quarantena come me la immagino io, come la sto facendo io, cioè chiuso tra le quattro pareti di una casa, e invece ci sono molte persone che la fanno in maniera diversa, che sono obbligate a farla in maniera diversa. Ed è ad esempio il caso della prima storia di oggi, la storia di una giovane donna che è una backpacker, che appunto viaggia zaino in spalla, che era 2 anni in giro per il mondo, che voleva tornare in Italia, invece si ritrova a rimanere dov'è, cioè in Australia, e ci racconta dove si trova e che cosa fa durante la sua quarantena. Ciao, sono Tina e sono una backpacker. La mia quarantena si sta svolgendo a Bingingwarri, un piccolo paesino che conta meno di 100 abitanti, a sud-est di Melbourne, in Australia. Appena appresa la notizia del coronavirus, i miei piani sono cambiati drasticamente. Saremmo dovuti tornare in Italia, dopo quasi 2 anni di lontananza da famiglia e amici. Ma conti fatti, abbiamo scelto di tornare a lavorare in Australia, sapendo che il lavoro che saremmo andati a svolgere non si sarebbe potuto fermare. Dunque, la mia giornata si doveva svolgere in questo modo, secondo i miei piani, più o meno così. Sveglia 8:30, così da essere in grado di fare un po' di esercizi fisici, una passeggiata, leggere qualcosa, fare colazione e controllare che le mucche della vicina non siano di nuovo entrate in giardino, come fanno di solito. A seguire pranzo verso le 11, lo so, non mi abituerò mai ai loro orari, in modo da essere pronta per andare a lavoro alle 11:30, dalle 12 alle 18. Questo è il mio orario di lavoro. Dopodiché, tempo per aiutare Dave, che è il proprietario di casa australiano, uno che crede che la mozzarella sia un tipo di pasta, per capirci, aiutarlo con la costruzione della sua barca, per poi mettersi a cucinare la cena intorno alle 19 e passare la sera tra un bicchiere di vino, una risata e un film. Così sarebbe stata una quarantena da copertina del Times dal titolo My Sweet Quarantine. Ma ecco, le cose non sono andate propriamente così. Dunque, la verità è questa qua. Sveglia sempre dopo le 10:30. Mi sveglio, mi accorgo che è tardi. Mai una volta che riesco a fare un esercizio fisico, quindi con un calcio sveglio il mio compagno. Se fosse per lui, dormirebbe tutto il giorno. Mentre mi ingozzo pane e Nutella. Controllo che le mucche della vicina siano al loro posto. E grazie a Dio lo sono quasi sempre. Lancio in forno la prima cosa che trovo nel frigo. Nel frattempo mi vesto. Spero sempre di aver indossato gli abiti corretti, ma non ho tempo di controllare. 11:30, devo andare al lavoro, sono in ritardo. In 0,2 secondi sfreccio con la mia Suzuki su una strada trafficata normalmente da bestiame e contadini e per il rotto della cuffia arrivo al lavoro in orario, alle 18:30 torno a casa. C'è Dave che ci voleva fare una sorpresa cucinandoci un tipico piatto australiano che da quasi un mese è sempre lo stesso, salsicce fritte e uno smash potatoes cotto in microonde. Ma grazie a Dio esiste Dave, perché a cena ci insegna a suonare il didgeridoo con un tubo trovato in giardino. Ci mettiamo a ridere fino alle lacrime. Il bicchiere del vino non è mai vuoto e anche se a volte ci sono dei lunghi silenzi, non ci si annoia mai. Concludo la serata con una serie infinita di videochiamate a tutti che mi chiedono sempre la stessa cosa: ma quando torni? Ci manchi? Durante il weekend eravamo abituati a organizzare qualcosa con degli amici, ma ora con questo dannatissimo virus non ci si può vedere e la cosa un po' mi mette tristezza. Oltretutto piove sempre, quindi c'è un clima molto leopardiano tra le mura di casa. Ma grazie a Dio, tra un film e uno scherzo ai gatti, ritorna subito il buon umore. Nelle pochissime giornate di sole cerchiamo di fare attività all'aperto come canoa, aggiustiamo la barca, vediamo le cascate che si sono create nei dintorni a causa proprio delle piogge. Il panorama a volte toglie veramente il fiato, ma anche se la mia quarantena è abbastanza piena di cose da fare, non vedo l'ora di riavere la mia libertà e poter tornare a riabbracciare amici e parenti e poter coccolare nuovamente gli amori della mia vita, le mie 2 cagnoline, di cui ho una foto da quando sono partita vicino al mio letto, per poi ovviamente ripartire alla volta dell'asino.